Comencemos. Una cigarrita. Devi dire sì, invece hai detto no. Quando ci sogna un atto troppo in fretta, io me ne vado a morte e spengo. Questa sigaretta.